Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica a tutti da Gegè Telesforo, qui dal Groove Master Studio di Radio 24 per un'altra puntata con il suono della musica, la prova del suono di Radio 24. E buona domenica e ben ritrovata anche a Silvia Barba. Buonasera, ben trovato a te e a tutti i nostri ascoltatori. Grazie, ormai sei diventata un elemento fondamentale per il Groove Master Studio, visto che tieni testa a tutti i sistemi telematici, social. Come va? Bene, devo dire mi diverto anche, perché poi ci scrivono anche durante la settimana, quindi durante la settimana mi diletto a rispondere. Mi aiuta anche Francesco Tromba in questo, devo dire. Certo, ho notato che hai ricevuto dei complimenti importanti per te per la tua attività di neoballerina. Sì, perché la signorina non è bello. L'artista Silvia Barba, multimediale, si è cimentata ultimamente, riprendendosi con tanto di videofonino, in un balletto a due con la nonna. Sì. Riproponendo una coreografia ormai consolidata, no? Esatto, è un brano di Francis and the Lights dove figura anche la partecipazione di Kanye West e Bon Iver, che abbiamo anche trasmesso qui al soundcheck. Io mi divertivo a copiare la coreografia e ho coinvolto tutta la famiglia, tra cui anche la nonna, ultra ottantenne, e è diventata famosissima questa coreografia, ha girato un po' il web e anche Francis and the Lights ha messo il mi piace su Instagram. Ma che brava! Io sono orgogliosissima. Certamente le visualizzazioni sono salite, non, lasciamelo dire, non tanto per la tua performance, ma per quella nonna, di nonna. Quindi esatto. Complimenti a tua nonna. Come si chiama? Natalina. Natalina, ti vogliamo tutti bene, stiamo aspettando il tuca tuca adesso. Sì, no, questa è una delle prossime cose che faremo sicuramente. Bene, veniamo alla musica. Oggi vorrei parlarvi di cose nuovissime, perlomeno in apertura, e parlarvi di un cantante, anzi una serie di artisti della nuova generazione che mi hanno veramente colpito. Mi hanno colpito intanto perché non c'è una pubblicazione ufficiale del brano che io sto per proporvi, ma è una cosa che ho trovato nei canali ufficiali di questi ragazzi, esattamente su SoundCloud. Quindi anche su se utilizzerete adesso durante l'airplay Shazam non verrà fuori assolutamente nulla. Quindi aprite molto bene le orecchie, perché questa è proprio la dimostrazione di quanto una bella melodia cantata da due bellissime voci con personalità e un pianoforte colpiscono più di un'orchestra intera e di un grande arrangiamento. Timbri bellissimi, mai sopra le righe, melodia assolutamente coinvolgente, molto emozionante. Giovanissimi e bravissimi, devo dire, perché entrambi, sia il pianista che è Ted Case che ha scritto questo brano, che il cantante Michael Maio, sono diplomati a scuole molto rinomate, hanno avuto la loro formazione nei conservatori jazz e non solo, suonano di tutto, canta Michael Maio in uno stile assolutamente originale. Ma ne parleremo. E poi quando la voce di Michael Maio in questo brano incontra quella di Amber Navran, che è una delle mie preferite, vocalist dei Moonchild, ma anche sassofonista, polistrumentista, e allora si raggiunge la bellezza assoluta. Il brano si intitola There I Am. Attenzione, preparate i fazzoletti, perché io al primo ascolto mi sono commosso sul serio. There I Am. Eh sì, mi vengono i brividi tutte le volte che sento questo brano, l'ho anche fatto sentire a mia figlia, e mia figlia si è dovuta trattenere. Ha qualcosa di magico proprio la composizione, la costruzione del brano, la costruzione della melodia interpretata così bene, senza fronzoli, proprio dritta, perfetta, con due voci che suonano. Ecco, quanto è importante il suono naturale di una voce. E quindi anticiparvi che Michael Maio, per quanto non abbia ancora registrato un album a suo nome, nome, secondo me è uno di quei talenti vocali da tenere d'occhio. Musicista completo, bravissimo pianista, diplomato, come diceva Silvia, presso il Thelonious Monk Institute, e tra l'altro credo che sia uno dei pochi vocalist ad aver vinto il premio ufficiale, no? Esatto, è uno dei tre in 20 anni di storia del Thelonious Monk Jazz Institute. Tra l'altro ha studiato anche al NEC, che è il New England il Conservatorio del New England a Boston, e da Los Angeles ora si è trasferito a New York, dove sicuramente dovrà registrare un album. Vi prego, fateglielo fare. Noi lo stiamo aspettando. Per ora il nostro Michael Maio ha registrato poche cose, quasi dei provini con la sua band. In studio l'ho visto con una band molto particolare, con la quale rifaceva il repertorio tratto dalla colonna sonora del successo di animazione Shrek. Pensa te che, sì, che sì, diavolo. Sì, perché ha lavorato anche in colonne sonore di cartoni animati, film. Ragazzi, ma con quella voce può fare quello che vuole. Tra l'altro a me interessa molto anche il fatto che utilizza la voce un po' in maniera old school, cioè dritta, senza tanti fronzoli come si fa adesso nello stereotipo del black American, black. No? Del cantante black. Invece lui è proprio jazz della vecchia scuola, certamente può cantare quello che vuole. Allora, e infatti lo fa, sì. E sentite come canta un successo di Little Dragon, una canzone che a noi piace tantissimo, che è Twice. Qui al soundcheck di Radio 24, Michael Maio. Soundcheck. Il suono della musica. Sì, questo è il sound del soundcheck di Radio 24. Marquis Hill, anche questo un nuovo talento del jazz americano, arriva da Chicago, questo formidabile trombettista, arrangiatore. Il disco io l'ho trovato sul serio molto interessante, molto ben realizzato, originale negli arrangiamenti, nella scrittura, anche nei soli. Ci stanno insomma delle belle cose nella produzione nuovissima di Marquis Hill, qui con la partecipazione di Christy Dashiell. Anche questo è un talento che ormai noi teniamo d'occhio, Silvia, giusto? È già. Il brano, un classico del jazz rivisitato, intitolato My Foolish Heart. E poi veniamo adesso a un campione nella voce. Ecco, per esempio, anche qui io ho una storia personale. Davvero? Perché, sì, perché mi arrivò, ma diversi anni fa, un demo di questo ragazzo chitarrista non vedente chiamato Raoul Midon. E mi ritrovai a cena con il direttore artistico di Umbria Jazz, Carlo Pagnotta, e gli segnalai Raoul Midon. Fatto sta che un po' di tempo dopo Pagnotta mi disse: sai che ho preso quel ragazzo, mi raccomando, speriamo bene, cioè, nel senso che se fa flop in teatro la responsabilità è la tua. Invece fu strepitoso Raoul Midon, da solo con la sua chitarra faceva delle cose spaventose, e poi ha fatto una carriera incredibile, perché lo ha preso Herbie Hancock a cantare nel suo album, lo ha chiamato Marcus Miller, insomma è un vocalist di tutto rispetto e anche un bravo compositore, ed è stato appena pubblicato il nuovo album. Guarda la copertina, dimmi se non è divertente anche il titolo, devo dire il titolo è fantastico. Badass and Blind. Dichiarazione di intenti. Possiamo tradurre? Fallo tu, va, perché io sono una signora, dai. Beh, insomma, un figlio, beh, non lo so, badass, insomma, un mascalzone, un cattivone, anche se cieco, e la copertina è fortissima perché c'è Badass and Blind, ovvero Raoul Midon in persona che vola tipo Superman. Il suo cappellino. Comunque un gran disco anche questo, composizioni originali, e poi che band. Beh, devo dire, si circonda sempre di musicisti particolari. Un ultimo tour che ha fatto qualche mese fa era con davvero Nicholas Payton, Gregory Hutchinson, hanno girato tutti gli Stati Uniti e come dire, c'è qualcosa di molto elegante, allo stesso tempo anche di molto personale. Sì, ci sono due formazioni infatti presenti in questa pubblicazione, una un po' più funk, ma poi c'è quella che propone il repertorio invece più jazz, che è fortissima, dicevi tu, il nostro amico Greg Hutchinson. Io spero che Greg possa venire a trovarci, anche perché ha sposato una nostra amica. Certo, è spesso qui in Italia. In Italia, quindi a Gregory Hutchinson lo aspettiamo al soundcheck. Nicholas Payton alla tromba, Joe Sanders al contrabbasso, Gerald Clayton al pianoforte, Raoul Midon alla voce, If Only al soundcheck di Radio 24. 1, 2, 3, 4. Soundcheck. Il suono della musica. E questo è uno dei miei album preferiti in questo momento, si intitola K.P. Kurt Rosenwinkel con la sua chitarra, una produzione incredibile, ci ha lavorato 10 anni, certamente non sono stati 10 anni, non è stato 10 anni chiuso in studio, ma nell'arco di 10 anni è riuscito finalmente a completare un'opera originale, senz'altro speziata di tutti quegli odori e quelle atmosfere tipicamente brasiliane, paese che lui ama molto e che conosce molto bene. Ma la cosa sorprendente di questo album, complesso nella struttura, nella produzione, nell'arrangiamento, che è stato quasi tutto realizzato da Kurt Rosenwinkel, che si è divertito a suonare tutto con la partecipazione di alcuni amici. Beh sì, si è fatto aiutare, come dire, anche un po' da delle grandi star che lo hanno sempre accompagnato e che sono suoi amici, uno tra tutti Mark Turner al sassofono, ma la special guest d'eccezione Eric Clapton, che in un brano suona fa un solo di chitarra bellissimo, e Amanda Brecker, che è anche la figlia di Liane Elias, Randy Brecker, che lo ha aiutato in molti testi in portoghese e che fa anche i cori in alcune composizioni. Tra l'altro canta per ora. Come si chiama la figlia di Liane Elias? Amanda Brecker. Ma io già mi sono innamorato così sulla parola. Una che si chiama Amanda Brecker, figlia di uno dei due fratelli Brecker, sì. E di Eliane Elias, che sì, oltre a essere una musicista eccezionale, qua ci vorrebbe tromba, no? Sì, sono convinto che a tromba Eliane Elias piace proprio fisicamente. Brasiliana, donna bellissima, pensa a Amanda Brecker. Ma non è di Amanda Brecker che vi vogliamo parlare questa sera, è di Kurt Rosenwinkel, chitarrista quotatissimo in questo momento, eccezionale, dal vivo dovete vederlo, è forse uno dei migliori chitarristi della nuova generazione jazz e non solo jazz, e l'album è bellissimo, dovete ascoltarlo. Come si intitola? K.P. Proprio come il titolo, sì, del brano che abbiamo messo in onda. K.P. e Kurt Rosenwinkel chiude questo appuntamento con il nostro soundcheck con Summer Song, bellissima questa composizione. Noi ci risentiamo sabato prossimo a partire dalle 19:15, sempre soltanto sulla nostra radio preferita. Qual è? Radio 24. Ciao Silvia Barba e buonasera, buona settimana e buona musica da Gigi Telesforo.